funzione di servizio. Il signor Lopollo è atteso in sala spacciatori. La weed me la pollo, la shish me lo pollo, la haze me la pollo, il cream me lo pollo, la scam me la pollo, la cash me la pollo. Io sono il più pollo, il signor lo pollo. La white me la pollo, che ta me lo pollo, il wax me lo pollo, con dax me la pollo, con bass me la pollo, coi meds me la pollo. Io sono il più pollo, il signor lo pollo. Io fumavo già dall'asilo, giravo con l'erba nel pannolino, impennavo col passeggino, amico non mi fido, perché io sono il primo che ti vendo il rosmarino e poi ti dico che white widow. Erba buena, lemon skunk, il solito marocchino, che se fosse South Park io sarei asciughino. Fumavo il cioccolato da bambino e poi è arrivato il polline, il super polline, il marocchino. E a scuola ero sempre assortito, ogni tanto mi alzavo dal banco ed uscivo, entravo nel bagno e facevo un chiusino, tornavo al mio banco strisciando e svenivo. E se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, mi fumo il mio burbuca e poi ti faccio suca sfregio. Sono sotto effetto, isoletto il sortilegio. Io non fumo il fumo, ma se fumo fumo e fumo pregio. La weed me la pollo, la shish me lo pollo, la haze me la pollo, il cream me lo pollo, la scam me la pollo, la cash me la pollo. Io sono il più pollo, il signor lo pollo. La white me la pollo, che ta me lo pollo, il wax me lo pollo, con la me la pollo, con bass me la pollo, coi med me la pollo. Io sono il più pollo, il signor lo pollo. E io quando fumo mi sento superpotere. Per esempio quello fa sparire i problemi. E Bass mi fa sempre più contento quando mi citofona e mi dice il caramello. In giro c'è il piattello e lo danno in 10 al grammo. Ma quanto nero carta, oro, libano giallo. Io non voglio l'erba, voglio ma voglio l'erba. Non una coi semi che quando fumi scoppietta. Dammi retta, questa è la fragranza. Lo sai che lo arrangio, una ganja all'arancia. E allora piantala, non far quello che critica. Ho detto piantala, piantala critica. E quando arriva Lux che mi porta delle news, che mi dice questa è buona, questa sconvolge di più. Questa raschia in gola, questa c'ha le cime viola. Questa dice pure fat, che è la più buona. La weed me la pollo, la shish me lo pollo, la haze me la pollo, il cream me lo pollo, la